Convocati di Carlo Genta. Dopo Natale e Santo Stefano, ripeto, queste puntate di Tutti Convocati sono in produzione congiunta con Olimpia, l'altro programma sportivo di Radio 24. Siamo registrati, non vi parleremo di cronaca perché non la conosciamo, non abbiamo la palla di vetro. Stiamo chiacchierando di sport e stiamo raccontandovi storie di sport. Grazie ovviamente alla presenza di Dario Ricci e ciao. Oggi sfruttiamo quella del professor Stefano Tirelli che ci sta facendo da guida. Abbiamo parlato ieri di gruppo vincente partendo da un gruppo perdente, abbiamo raccontato credo un sacco di cose che per me sono state estremamente interessanti, ma anche credo per chi ci ascolta. Gruppo perdente, quello della nazionale, siamo arrivati alle emozioni, all'emotività dei giocatori, alla prepartita, alla costruzione della partita. Dove ripartiamo, ragazzi? Ma io piacerebbe approfittare di Stefano, visto che c'è mondiale alle porte, beato chi ci va. Mondiale di calcio, quello sport, quello là, ti ricordi? Non conosco. No, non comprendo. No, dal 13 novembre, diciamo, sono tutte amichevoli. Veramente sono ancora sotto shock. Ecco, dacci un aiuto, Stefano, come si supera il trauma dell'eliminazione mondiale? Perché lo sai che a me non mi va di vedere più il calcio, non ho visto Inter-Juventus, non ho visto Juventus-Roma. Amico mio, una volta tanto. Vi posso dire... Dacci qualche pillola, qualche innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie per il vostro invito. Vi faccio un esempio molto pratico. Io ero a San Siro, stavo appunto commentando la parte mentale fisica per Rai Sport di Italia-Svezia e a fine partita c'è stato il collegamento in diretta e c'è stato un momento di imbarazzo generale perché lo shock è stato tremendo per tutti. A quel punto ho dovuto attingere dal fondo del fondo delle mie risorse per cercare di trasmettere un minimo di, non dico di serenità, ma di minimo di luce rispetto ad un ambiente che, a parte gli scherzi, ha scioccato tutti noi. Nessuno. Il problema è che tra il pensare delle cose e il viverle è proprio una, c'è altro che mare, c'è un cosmo. E quando si vivono queste esperienze c'è bisogno di un tempo per metabolizzarle, cioè non è possibile viverle ed elaborarle dopo poco tempo. Io credo che noi inizieremo come italiani, dico, a metabolizzarlo a fine mondiale. Sì, perché a quel punto hai voltato pagina, hai fatto finta che quello che è successo non esisteva. E si inizia un nuovo progetto, perché la vita va avanti per obiettivi. Se tu non hai obiettivi, sei in balia dei venti e degli eventi. Quando tu hai un obiettivo tracciato in avanti, tu sai che le difficoltà possono diventare una spinta ulteriore per raggiungere lo stesso obiettivo. Il problema è che qui non abbiamo più l'obiettivo e dobbiamo aspettare che l'obiettivo arrivi per gli altri. No, ma poi sai, è un fatto sociologico anche lì, no? Che facciamo quest'estate, le grigliate, le riunioni con gli amici, le chiacchiere in qualunque locale pubblico di qualunque genere. Quelli che piacciono, manca Cruciani un rito, compresi, no? manca un rito, una ritualità, cioè manca però una sacralità. La cosa molto bella, secondo me, voi che siete maestri in questo campo, siete i giornalisti in questo caso della cultura sportiva e non solo ovviamente, è che secondo me avremo nostalgia anche delle critiche dei giornalisti, cioè che sono il sale, no, di quei momenti, la critica verso il giocatore, l'allenatore, il modulo, eccetera, e tutti dicono ah ma non se ne può più questi giornalisti. No, invece vi posso dire, mi mancherete tantissimo. Criticheremo gli altri. Compri la Gazzetta e vedi la pagella di Russia Iraq, ma chi se ne frega, no? Secondo me la legge, questo è un altro aspetto per cui insomma è una crisi nella crisi che riguarda un altro aspetto, un altro settore della vita. Però altro meccanismo curioso quando ci sono queste grandi manifestazioni che io ho notato, allora gli ultimi due giri siamo usciti subito, però ho notato, Stefano confermi se è solo un'impressione o è vero, fino a quando l'Italia è in gioco ti interessano tutte le partite, anche la mia mamma guarda tutte le partite. Quando l'Italia esce, allora è finito il mondo e anche se c'è Argentina-Brasile te ne frega più niente. Infatti hai usato come esempio un soggetto femminile per eccellenza, in questo caso la mamma, e le donne sono l'esempio più eclatante, sono quelle che ci sono tante ormai donne che seguono il calcio, ma anche quelle che non lo seguono per la nazionale sono appassionate, iniziano a parlare di fuorigioco, che per noi è chiaramente la cosa più impensabile del mondo, e lo dico scherzando ovviamente, però sì, mancherà un'energia, un'emotività, e non lo dico banalmente perché credo che sia l'unica risposta che possiamo dare a certe situazioni come questa. Bisogna essere molto forti in termini di riorganizzazione. L'organizzazione è sinonimo di evoluzione. Nel momento in cui iniziamo a tracciare nuovi obiettivi, nuove vie, allora stiamo programmando, stiamo già evolvendo. Se ci fermiamo al dolore sportivo in questo caso, e sociologico se vogliamo, e basta, chiaramente questo diventa un elemento un po' troppo pesante che non ci permette di sognare nuovamente. Noi sappiamo che, volenti o nolenti, i sogni sono il sale della vita. A proposito dei sogni, raccontaci un po' qualche aneddoto di un campione che ha fatto sognare tanto, David Beckham, no? So che tu ci hai lavorato molto, tra l'altro Stefano ha rimesso in piedi due grandi atleti che hanno subito un serio infortunio al tendine d'Achille, David Beckham e Dario Ricci. Quindi ecco, dei due tendini d'Achille che conosce Stefano, direi che siamo ai massimi livelli, siamo al top. Beh, di David io posso parlare solo bene, lo sottolineo, è un professionista. Mi ricordo di, aspetta, per far capire subito perché mi è venuto in mente questo episodio, di quell'SMS che ti mandò appena sbarcato a Milano, no? Dice poi casomai chiamami che iniziamo a lavorare con calma, no? Ecco. Sì, no, lui è diciamo tempestivo, cioè sceso una volta appunto dall'aereo immediatamente, il primo messaggio, anzi io non avevo ancora il suo numero di telefono perché lo conobbi in nazionale, lavorando con la nazionale inglese. Dopodiché lui si trovò bene e mi disse: guarda, sono a Milano, perché non ci troviamo, eccetera. E arrivato a Milano mi arriva questo messaggio senza col numero e basta, non l'avevo ancora memorizzato io, e mi dice: hi, sono David Beckham. E allora quando leggevo questa cosa dicevo: ma tu pensa la vita com'è strana, cioè la vita è uno di quei personaggi, no, che tu vedi come esempio per molti giovani eccetera, poi ti arriva un messaggino: hi, sono David Beckham, how are you, ci vediamo dopo. Dico, ah, quasi quasi sì, ho detto, dai, vediamo. Sbarcato già voleva lavorare, sì, voleva lavorare immediatamente, professionista clamoroso. Immediatamente. E una cosa che colpisce di lui, al di là della sua intelligenza tattica, della sua abilità, è la sua educazione. Io è uno dei personaggi più educati che abbia mai visto, volgarmente parlando, scusate il termine, molti potrebbero dire se la potrebbe tirare, no? Per quello che è. In realtà no. È un ragazzo, un uomo che al cameriere che arriva gli appoggia il piatto, gli dice grazie, alla signora che sta mettendo a posto gli scusi, le passo davanti, con tutti i fisioterapisti, i tecnici. Lui è una persona educata, e scusate se ve lo dico, ma questa cosa a volte è un pochino rara da trovarsi nel mondo vagamente rara. No, ma di Beckham io ho sempre avuto, comunque, ma ascoltando testimonianze, chi l'ha conosciuto io superficialmente, però ho sempre avuto l'idea di Jessica Rabbit, no? No, io non sono così, mi dipingono così. Lui era una rockstar traghettata nel corpo bellissimo di un bravo calciatore, non di un fenomeno assoluto, ma di un eccellente calciatore, di un eccellente atleta. Ed è questa l'immagine che ho sempre avuto di Beckham, cioè estrema professionalità, estrema serietà, non rockstar, se non per quella normale aura, certo, di glamour che faceva anche bene, chi la critica. E poi l'altra cosa, cioè lui è uno che ti ha sempre dato l'impressione, attraverso l'oceano a nuoto, squali compresi, per giocare un minuto in amichevole con la maglia bianca dell'Inghilterra. Sì, infatti ricordo che durante gli allenamenti in Sudafrica, a Rustenburg, eravamo questo suo altopiano incredibile, e notai ad esempio delle abilità, che un conto è vedere una partita, un conto è vederla in allenamento, no? E capì questa magia del fuoriclasse che scoprì lui, e per esempio anche in Zico, poi vi racconto un piccolissimo perché lui ha giocato a calcio con Zico, no? Questa è una storia bellissima di realizzazione dell'immaginazione. No, Beckham faceva praticamente un suo allenamento col tendine ancora, diciamo, in via di recupero, calciando il pallone da prima di centrocampo e dicendo: ve la metto là su quel palo o ve la metto là sull'altro palo, quindi della porta più lontana. Lui calciava e la palla ping, contro il palo di sinistra, ping, contro il palo di destra. E quindi non, è... non c'era computer come Ronaldinho che prendeva 10 volte la traversa. Incredibile. E questa cosa segnala, per chi ha una sensibilità nei confronti della magia dello sport, si capisce che c'è qualcosa di extraordinario in queste persone, perché il modo di calciare la palla, il modo in cui gira la palla, ad esempio ricordo questo aneddoto molto simpatico, quando andavo a Istanbul al Fenerbahce, perché stavo seguendo ai tempi il recupero psicologico di Appia, che dopo la delusione Juventus, quando lui d'estate aveva ancora il contratto, e gli dissero: guarda, vieni qua che devi scegliere o Schalke o Fenerbahce. Lui rimase totalmente scioccato e a quel punto mi chiamarono e mi dissero: puoi aiutarle? Allora io vado lì, ve la faccio brevissima, e mi trovo di fronte ad un certo punto come allenatore il secondo anno Zico, e per tutta me era gente che le punizioni dirà bene per me, frequenti. Io quando avevo 13 anni 12 anni ero innamorato di Zico, me lo vedevo con questi calci di punizione. Andavo a San Siro a vedere o Inter Udinese o Milan Udinese, ma per vedere Zico come quando c'era Maradona, andavo a vedere, o Inter Napoli, cioè. Io non solo Inter e Milan, Maradona andavo a vederlo dappertutto. È bravissimo, no, perché effettivamente era la magia. Ad un certo punto io ricordo che quando ero ragazzo dicevo: come mi piacerebbe un giorno giocare con Zico, mi immaginavo, no? Dicevo: io che Zico me la passa, eccetera eccetera. Arrivo a Istanbul, secondo anno, Zico, ciao. Personaggio straordinario, di una simpatia, di un'educazione anche lui e di un'intelligenza importante. Non nega una foto a nessuno, ho visto anche a Cardiff che era lì tra i commentatori, sì, nell'intervallo, tutti là, Zico, tutti, un sorriso, una foto a tutti. No, un uomo di cuore. E ad un certo punto cosa succede? Che il venerdì sera, se si giocava la domenica, si faceva lì nel campo d'allenamento l'amichevole tra staff brasiliano contro lo staff turco, quindi Zico, i suoi assistenti, suo fratello che si è sempre portato dietro come vice eccetera, e lo staff dei fisioterapisti eccetera del Fenerbahce. Allora mi dicono: vuoi giocare con noi? Mi dice Zico. Io faccio: ma magari sì. Io mi metto nel campo d'allenamento, ad un certo punto fischia e mi vedo Zico e mi dice: vai Stefano, vai, corri. Io scatto sulla fascia sinistra, sono mancino, e mentre correvo dicevo: cioè Zico mi sta passando la palla. Ma la cosa più bella è che a un certo punto Zico sbaglia un controllo, io mi lascio prendere dall'enfasi, gli dico: ma che fai Zico? E dico: no, io sto dicendo a Zico che fai. Però la vita è bella, perché a volte ti riserva di queste. E perché stiamo parlando di questo? Perché stiamo parlando della capacità di immaginare. E l'immaginazione deriva dal punto di vista etimologico proprio da in me mago, cioè la capacità di creare la magia. Quindi immaginare è veramente il primo presupposto per realizzare le cose. E poi ci vuole il lavoro, no? Capitando nello studio di Stefano qua a Milano, una volta mi sono imbattuto, grazie alla sua intercessione, con Italo Galbiati, no? Il grande assistente di Capello. Di Capello, perché ci vuole questa capacità unita anche al lavoro, no? Che ci raccontava proprio, sempre a proposito di David Beckham, della meticolosità con cui lui affrontava la sua carriera da professionista. A Madrid, come ricorderete, Capello se lo trova in squadra, non era il principale dei desideri di quella campagna acquisti, ma andavano di moda i Galacticos, e con Galbiati si parlano e dice: oh, questo qua non va, questo qua in questo ruolo non mi serve, a me serve che faccia la legna a centrocampo perché ce ne abbiamo tanti. Beckham che fa? Viene messo in tribuna da Capello, segue la squadra in tutte le trasferte e si mette in tribuna col quadernino a segnarsi movimenti, giocate, schemi, per capire quello che doveva fare, quello che gli chiedeva a Capello, a Beckham. nel momento in cui, ci ricordava Galbiati, lo chiama, lo vede pronto e dice ok Italo, questo adesso è pronto, lanciamolo titolare, Beckham diventa decisivo per quello scudetto, certo, perché si mette, certo, a fare il mediano, si mette a fare non l'otto, il numero 4, si mette a fare il numero 4, tira la punizione e fa pure gol. Ragazzi, un attimo di pazienza, traffico, torniamo subito. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presento. Tutti convocati. Santo Stefano, e non siamo in diretta, siamo registrati. A proposito, Santo Stefano, facciamo gli auguri a Stefano Tirelli con un po' di anticipo, perché non è in realtà Santo Stefano, caliamo una maschera. Beh, Santo non Stefano ideale, perché sei in onda Radio 24, esatto, intanto fai pure il secondo pranzo di bravo, e poi cioè, ti ascolti. Ah. Ti riascol- no, è tutto meraviglioso. Poi, c'è pure comunque, il podcast, comunque, pure il podcast. Grazie, no, perché non è, io non ho mai capito questa cosa dell'onomastico, cioè è un dono immeritato, nel senso che il compleanno, sai, uno dice hai compiuto un nuovo anno e se l'hai fatto bene dice lo festeggiamo. Quello dell'onomastico, io vi ringrazio, viene, però non ho fatto niente. Sulla fiducia, fatto... sulla fiducia. Faccio gli auguri a mamma e papà, che ti hanno chiamato il mio compleanno, il 29 febbraio, quindi non c'è mai, e ciao. Infatti sono ancora minorenne. Dicevamo di... Beh, stiamo chiacchierando e divagando, ma in maniera estremamente interessante, raccontandovi anche aneddoti. Parlavamo di Beckham, ne parlava prima Dario Ricci, ne parlava Stefano Tirelli, con cui ha lavorato. Io, a me rimane l'immagine di un grandissimo professionista, non certo di un calciatore rockstar. Mi viene in mente anche quanto disse Ferguson nei primi anni dello United: è l'atleta più forte che io abbia mai allenato. Confermi, Stefano? Sì, è senz'altro uno degli elementi più emblematici e anche educativi. Se io, sapete, insegno anche in università, ma so, a me piace molto divulgare e cercare di trasmettere dei valori. Devo dire che David Beckham, se vogliamo, senza fare il bigotto, voglio dire, però anche nell'ambito familiare ha scelto una strada, nel senso che tutti avrebbero detto, anzi dicevano, durerà 4 mesi sto matrimonio. Oh, in realtà sta andando avanti e voglio dire continuava a figli, che ti devo dire. No, però un altro esempio importante, per esempio, della, dell'aspetto serietà e dedizione è quello di Steven Gerrard. Anche lui, Gerrard, in ambito di nazionale ha sempre dato tutto, ma quello con cui ho lavorato maggiormente, che mi ha dato idea di grande grinta e determinazione in assoluto, è stato John Terry. John Terry, sì, lui ha una forza interiore che credo gli arrivi proprio dalla strada, cioè lui, ricordo anche a livello familiare, insomma, le situazioni non erano delle più ottimali, e a volte fai di quella forza un po' sporca la tua risorsa principale. John Terry, anche se senza un ginocchio, avrebbe giocato per la nazionale, ma così anche per il Chelsea. È veramente un personaggio, e poi è uno che non si tira mai indietro di fronte ad allenamenti extra, sta di più sul campo, vuole fare trattamenti energetici, di mental training, tutto. Ma è una caratteristica comune di tutti i grandi campioni, sì, perché i grandi campioni non sono i lazzaroni. Da Cristiano Ronaldo, per andare poi dentro una storia, agli allenamenti, cioè Berry, di Michael Jordan, che massacrava tutti i compagni fino all'estremo, allo stremo delle forze. Cioè il grande campione è uno che si fa un culo così, perché sì, è inutile, il talento vale fino a un certo punto, e anche da questo punto di vista, mentre in passato potevi permetterti di essere Platini, Maradona, e di allenarti il giusto, di fumare sigarette tanto Ciabolini che corre per me, storica frase di Michel Platini, oggi non te lo puoi più permettere con lo sport qual è attualmente, no Stefano Dario Ricci? Tra l'altro, approfittando dell'assist di Carlo, può diventare un'ossessione per un atleta, per un campionissimo, cioè la meticolosità, l'iperallenamento. Si può in quel caso non allenare, ma educare un campione anche al riposo, perché poi sappiamo che, vado a chiudere, per un atleta l'allenarsi è sempre, anche quando non lo è, la panacea di tutti i mali, no? Perché è quello che ti dà sicurezza, è quello che fai tutti i giorni, e quindi Mennea ci perse una medaglia olimpica per iperallenamento, no? Ecco, stavo facendo proprio l'esempio di Pietro Mennea. Ormai la telepatia, vedi. No, Pietro Mennea in realtà è l'esempio, no, di come nella nostra vita il troppo può anche fare male. Io uso sempre un esempio e dico agli atleti: né troppo tanto né troppo poco, ma la sostanza, abbastanza, cioè vuol dire che è quello il punto di equilibrio. Abbastanza non vuol dire poco, vuol dire che basta così, vuol dire che senti che hai dato tutto. Quindi c'è il momento per decantare. Ci sono giocatori o atleti, cestisti, pallavolisti che hanno addirittura a volte timore nel volersi esporre al di fuori del campo di gioco, perché pensano che sia una perdita di tempo, no? Io ogni tanto veramente suggerisco a questi atleti di andare a mangiarsi una pizza con gli amici, per esempio. Ci vuole il punto di equilibrio, che non è una banalità, è veramente, secondo me, il segreto, relativamente parlando, per ognuno del proprio successo. Il troppo, come per Pietro Mennea, gli ha consentito sicuramente di raggiungere dei traguardi incredibili e fantastici, però l'ha consumato. Non c'era felicità nei suoi occhi, non c'era soddisfazione, era sempre sul pezzo, sempre borderline, era troppo. E invece a livello invece di impegno e di dedicare tutto, dal primo secondo d'allenamento all'ultimo secondo dell'allenamento e poi ovviamente anche del match o della gara, questo sì, questo fa la differenza tra un giocatore, un bravo giocatore e un campione. Io ho avuto anche un'esperienza molto breve, perché poi decidemmo di prendere due strade differenti con Alessandro Del Piero, no? Abbiamo avuto un momento di breve proprio di lavoro insieme. E ricordo che una volta vidi nella sua vecchia casa, insomma, c'era una copia della Coppa del Mondo. E ovviamente non di valore, ma comunque era, la misura era 1-1. E gli dissi, mentre stavamo facendo un trattamento, io, certo Ale, che quella coppa è una cosa, è una magia, no? E lui mi disse: ma io non me la sento mia, perché non le ho giocate tutte e non ho fatto tutto quello che sentivo di dover fare. Quindi un po' così, cioè, stiamo parlando della Coppa del Mondo, è il trofeo, è chi non si accontenta, chi vuole essere sempre determinante e all'interno di un contesto come protagonista. Questo ti fa la differenza. È comprensibile, perché se tu sei abituato ad essere il numero uno, ad essere comunque il titolare, che giochi tu più altri 10 eccetera, è quasi normale, nonostante quel gol alla Germania, che tu dici: sì, però non ero titolare, sì, però partivo dalla panchina, sì, però potevo fare 8 gol, ne ho fatti 2. Quindi è anche umano e comprensibile. È anche sintomo però di grandezza, no? Del appunto dire: io voglio essere il protagonista. Cioè, certo. E questo fa la differenza, questo fuoco dentro. Tu pensa che capolavoro è stato tenere in piedi quel gruppo per quel mondiale, no? Cementato sicuramente anche forse da Calciopoli, no? Perché ricordiamo il clima di quel 2006, ma con personalità, ecco, solo Del Piero e Totti, no? Buffon, Nesta e Materazzi che esce del titolare per motivi vari, un Gattuso e Pirlo, cioè situazioni da veramente tenere insieme quel gruppo. Inzaghi pure, un altro che mangerebbe i parenti più stretti per essere titolare, chiaro, e per avere il pallone buono, che entra, fa un gol, insomma, sì, veramente sinergie astrali. Tra l'altro mi faceva venire in mente che in una delle puntate di quest'anno di Olimpia, proprio Sandro Campagna, tornando al tema del lateral thinking, dell'essere impegnati, ci parlava di come lui costruisce quelli che saranno i futuri protagonisti del Sette Bello, no? E parliamo di pallanuoto. Dice, anzi, l'abbiamo beccato al telefono, proprio dice: mi beccate in questo momento che sono appena uscito da una riunione tecnica con i miei collaboratori. Dico: va bene, così ci dici qualche segreto. Dice: no, perché abbiamo visto le pagelle di tutti i nostri ragazzi azzurrabili che ancora vanno al liceo. E chiaramente laddove ci sono delle insufficienze io li chiamo, li convoco, parlo con le famiglie, parlo con loro e non li chiamo in azzurro, perché a scuola si deve andare bene. E chi invece già ha superato l'età delle scuole superiori viene caldamente consigliato dal CT, e quindi insomma buon intenditore, di iscriversi almeno a un'università online, perché fondamento della costruzione di quella squadra, che non vince abitualmente poco, è il fatto che il buon atleta e il buono studente si aiutano a vicenda, non fanno uno a botte con l'altro, perché aver la mente impegnata anche su altri obiettivi, chiaramente magari di livello diverso, di difficoltà diversa, ma che ti danno consapevolezza delle cose, arricchisce. Figa, noi siamo arricchisce una cosa assurda, basta guardare in America, cioè l'università è la borsa di studio, anche se sei un fenomeno del basket, del baseball o del football, se non hai i voti che ti permettono di andare avanti vai fuori squadra, quindi a noi sembra una cosa fantascientifica. Anzi, in realtà il professore di solito ti fa un po' la guerra se tu dici, ti mettono le gare tra l'altro alla terza ora, per cui tu perdi un giorno di scuola e poi se, quando ci vai, l'insegnante di greco o di matematica si incazza pure, perché dice: che fai? Ma quelli mi hanno convocato, che faccio? Cioè. Beh, ma se pensiamo, io arrivo dal panorama, dal mondo delle scienze motorie, e vivo il mondo delle scienze motorie anche in ambito universitario. Per cui se pensiamo al panorama nostro, quello italiano, intendo, questo è chiaramente assente, no? Come punto di fondamento culturale. Ma se vogliamo vederlo anche nei programmi dei vari governi politici, ma avete mai sentito parlare in modo importante, basilare, di programmazione per l'attività culturale sportiva? È una cosa che è un po' come l'ambiente. Ambiente, sport, sì. Poi ne parliamo. Sì, ma guarda Stefano, che potremmo arrabbiarci anche in questi giorni di luce, come dicevi ieri, perché l'ora di educazione fisica in Italia, inutile che ce la raccontiamo, è fatta dalle palestre di 100 anni fa, che sono uguali a quando eravamo piccoli noi, sì. Sono le stesse, con le colonne di cemento, palestre garage, io mi ricordo palestre garage, le colonne all'interno di granito all'interno della palestra, le strutture sono quelle. L'ora di educazione fisica è un'ora di calcetto barra pertiche barra cose di cui vai in un altro paese più evoluto, Stefano Tirelli ce lo può insegnare, vai in America, vai in Inghilterra, lì giochi a Inghilterra, giochi a calcio, poi scendi, vai in canoa, hai le strutture, questo è chiaro. Però ti puoi fare anche la doccia, perché tutto ti puoi fare anche la doccia tra un'ora e l'altra. Lo sport viene messo temporalmente, viene collocato in maniera coerente, e fai sport sul serio. Quindi un ragazzino inglese sa minimamente giocare a golf, andare in canoa, giocare a tennis, giocare a calcio, giocare a cricket. Poi e magari poi non è un fenomeno in niente, però sa fare tutte queste cose. I nostri che fanno si fermano, come noi in questo momento. Time out, torniamo. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Ciao Ivana, allora domenica mattina andiamo a correre. Beh sì, la maratona ci aspetta. Io sono carichissimo, mi sono allenato per mesi, ho seguito tutti i consigli di Personal Best su Radio 24. Ok, allora ci vediamo domenica mattina alle 6:30 puntuale. Alle 6:30? Sì, così mentre andiamo ascoltiamo la nuova puntata di Personal Best. Ma io alle 6:30 non ce la faccio, è troppo presto. Vabbè, e la trasmissione? Che problema c'è? La possiamo ascoltare quando vogliamo, c'è il podcast. Sei proprio un podista della domenica. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6:30 su Radio 24. Studiare, fare stage, lavorare, fare impresa all'estero. Una generazione mobile. Il mondo non ha più barriere per i giovani. Radio 24 vi dice come fare per preparare la valigia e partire. Informazioni pratiche, dritte, testimonianze dirette, offerte di lavoro e siti internet di riferimento oltre confine. Un manuale utile per cogliere le enormi opportunità di studio e professionali in questo piccolo mondo interconnesso, ovunque vogliate andare. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13:30 con Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio. Naturalmente qui, su Radio 24. Tutti convocati. Chiacchiere e chiacchierate, che tra con il doppio titolo Tutti Convocati Olimpia che stiamo facendo con Dario Ricci, e ringraziandolo di nuovo Stefano Tirelli. A voi, grazie. Stiamo raccontando storie di sport, di mente, di preparazione. Poi avremo un miliardo di argomenti da affrontare. Chissà se ci vengono tutti. Sarà due volte Natale, come diceva il cantautore, no? Proprio per far tutti gli argomenti possiamo fare. E speriamo che sia festa tutto l'anno. No, a che punto eravamo rimasti? Beh, parlavamo di Inghilterra, sì. No? Di Gran Bretagna. Ma posso dirvi per esempio una cosa? Cioè, io ricordo, ero in uno dei famosi hotel in cui si va in ritiro prima delle partite contro il Barcellona, a Barcellona. Io ricordo, era Barcellona-Chelsea, una delle tante semifinali che ho col Barcellona. Io ricordo che guardando dalla finestra vidi campi da tennis, una piscina, due campi da calcio, tre campi da basket, e dicevo: ma in Italia, ma quando mai io dalla finestra di un hotel di una città vedo tutti quei... Allora ci facciamo la domanda: ma come mai la Spagna negli ultimi 15 anni sta vincendo tutto, anche grazie alle infrastrutture, grazie alle strutture, grazie ai campi, grazie alle palestre, e noi cosa, dove siamo? Beh, si è visto anche Valencia, no? Sapete, insomma, che c'è la parte del fiume interrata, sì. No? Perché ci fu l'esondazione, è stato chiaramente risistemato, e buona parte di quel tratto del fiume che attraversa la città sono impianti sportivi, sì, insomma. Sì. Tra gli impianti di Calatrava e tutte queste strutture sportive. Anche per il tempo libero, poi, perché non è che devi per forza giocare a calcio 11 contro 11, ma se c'è anche lo spazio per una sana passeggiata o una biciclettata... Si può fare e anche io credo a prezzi contenuti, se non esattamente gratis. Non è come qui, vuoi giocare a tennis, devi essere miliardario, perché sennò non me lo posso permettere. Bravo. Quindi i risultati li vedi nell'aria. A me è capitato di fare questa bella esperienza da studente all'estero quest'estate, ai mondiali di Budapest di nuoto e ai mondiali d'atletica a Londra. In particolare questi secondi, ma anche i primi, sono stati una festa. Si sentiva un'atmosfera nella città, ma nello stadio olimpico, di gente che alle 10 del mattino di una qualsiasi giornata infrasettimanale veniva a vedersi le batterie, ma per la gioia di stare insieme. E erano più neonati e gli anziani delle persone di mezza età. Uno stadio olimpico in cui tutto il primo anello c'ha una prima fila dedicata ai portatori di handicap diversamente abili, che mettono lì le loro carrozzine, si siedono lì con tutte le prese elettriche col wifi, cioè l'altro mondo, ti veniva veramente di chiedere. Poi c'era già stata la Brexit, questi si allontanano, però sì. Insomma è un'altra cosa, sta nella qualità di essere equilibratamente critici, no? Noi sappiamo di avere come italiani tanti elementi comuni positivi. Il problema è che se non andiamo a studiare le positività degli altri, difficilmente impareremo a migliorarci. Io devo dire che la mia passione per il viaggio è stata per me una fonte di conoscenza e di apertura mentale che mi ha permesso anche di realizzare qualcosa che qua ancora non c'era, vedendo e prendendo spunto dalle ricchezze delle altre culture. Senti, ma come si torna da una carriera che sembra finita? Perché in quest'anno abbiamo vissuto tanti back to back, tanti ritorni, mi viene in mente Federer, Nadal, ma ce ne sono moltissimi di atleti di enorme nome che erano scivolati verso la fine. E questo può essere un altro tema che volevamo trattare, cioè come si gestisce la fine della carriera. Peter Pan potrebbe raccontarci mille storie. Però cosa ci vuole per tornare? Perché per arrivare sappiamo, ma per tornare? Generalmente chi riesce a tornare dopo un periodo di buio è l'atleta che non ha mai smesso mentalmente di esserci. Voglio dire, ci sono atleti che fisicamente hanno dei momenti di debacle per vari motivi. È che questo corpo, se non è nutrito da una forza, se vogliamo, invisibile, che è quella che ci fa svegliare tutti i giorni, che ci fa muovere, che ci fa camminare, anche se noi non stiamo a pensare adesso muovo un piede e poi l'altro, è qualcosa che è dentro noi, è una spinta vitale. Allora generalmente se c'è una condizione fisica recuperabile e c'è una mente che ha voglia di ritornare in campo, il lavoro è possibile. a volte ci sono delle situazioni in cui il logorio fisico, anche se mentalmente proprio lo si vuol fare, lì ci sono dei limiti. Questa perlomeno è la mia esperienza, non dico che sia una regola fissa. Una cosa però importante anche da ricordare è che noi abbiamo sempre una percentuale in più di possibilità rispetto a quelle che noi pensiamo di avere per il raggiungimento di obiettivi. Cioè la nostra potenzialità è sempre maggiore, certo, se uno dice a 99 anni, chiaro, no, chiaro, chiaro. Però nella logica dei fatti noi dobbiamo lavorare sempre su quel range di possibilità in più che esistono. Ma anche nella nostra quotidianità, se pensiamo a certe cose che facciamo in certi momenti, dire ma dove le ho trovate quelle forze, cioè non avrei mai pensato. È quel range di cui parlavo, c'è un surplus che c'è, un bonus che noi abbiamo, e lì bisogna lavorare sulla mente dei campioni. A differenza invece proprio diametralmente opposto, parlando dell'abbandono, di quando invece uno, nonostante il logorio fisico, non voglia abbandonare il campo, e lì diventa un altro problema di gestione. Accade nella tua esperienza perché non hai ancora deciso bene che cosa fare, perché non può fare a meno di quella adrenalina, perché ti fa comodo, perché io credo sia difficilissimo passare dall'essere personaggio all'essere persona, e quindi ci sono un sacco di variabili. Non è che sono tutti dei tonti o che sono tutti degli eterni Peter Pan. Io mi rendo conto che siano problematiche reali, vere e anche difficili da affrontare. Secondo me sono l'insieme degli elementi che tu hai appena descritto. Cioè non c'è un elemento predominante, perché una cosa è concatenata all'altra. Cioè l'adrenalina, questa sorta di positività adrenergica che ti consente ogni giorno di pensare all'allenamento, di vedere di settimana in settimana l'obiettivo, che ti fa anche andare molto veloce la vita, perché quando sei atleta o sei all'interno di un contesto atletico come quello di una squadra di calcio piuttosto che di basket, il tempo vola. Sai perché? Perché tu non hai appena finito questa partita che già stai pensando a quella fra 3 giorni o fra 5 giorni, e non ti rendi conto che il tempo sta andando. Non sei focalizzato sull'intensità, per esempio, di una giornata, di una quotidianità all'interno di un ufficio, all'interno di una fabbrica, all'interno di un contesto tra virgolette normale. È un mondo parallelo quello dello sport ad alto livello. È veramente, perché vai di programmazione, soprattutto in ambito calcistico, cestistico, di giorno in giorno. E questo lo vivo anche io come protagonista, diciamo, se non diretto ma collegato. La mia vita va velocissima. Quando sei all'interno di una squadra non fai tempo a pensare alla partita di campionato, che devi pensare a quella di mercoledì, di coppa, di giovedì o di martedì. E l'insieme di questi elementi chiaramente non può che avere dovrebbe avere un aiuto esterno, sì, che ti possa far capire: guarda, adesso inizia a pensare un attimo al futuro. E non c'è quasi nessuno che ti fa pensare a questo, perché tutti sono sul carro, tutti usano, spremono il successo, l'enfasi, ma giustamente anche dico, non è che sto facendo una critica, ma il vero aiuto è quello che ti mette di fronte a una possibile verità, una delle tante, ti dice: guarda che sai cosa, adesso è il momento di iniziare a pensare al dopo. Solo che a volte si ha timore, no, di parlare ad un campione del dopo, perché hai paura di perderlo, di perdere il suo consenso. Ti è piaciuto l'addio di Totti? Ma diciamo che è stato sicuramente per molti versi emozionante, ha toccato gli animi. Credo che faccia parte di una cultura del luogo, no? Una cultura proprio del luogo di Roma, che forse sarebbe stata differente, non dico né migliore né peggiore, se fosse stato un addio di un grande calciatore a Milano. C'è proprio una enfasi che è diversa, ma che è rispettabilissima. Chiaramente ci ha messo anche lui un pochino, e forse non ha ancora terminato questo processo di metabolizzazione di non essere più un giocatore. L'abbiamo visto per esempio in occasione, ricordo, dopo qualche settimana di una partita di Coppa di Roma, di Coppa Europea della Roma, e dove lui, anziché andare alla partita, mi sembra che quel giorno andasse forse a presenziare, a giocare con le vecchie glorie. Sì, era la trasferta, adesso non mi ricordo, sempre nell'est Europa, ma lui quel giorno ha detto: ah, non posso seguire la Roma perché c'era la partita delle vecchie glorie in Georgia, tra l'altro. Lui stava a Tbilisi e la Roma stava o con lo Shakhtar o cose di questo tipo. Sì, ma sì, quest'anno allora, si è visto che forse quella, cioè, di... dai, vabbè ragazzi, tanto quella ve la giocate voi, vabbè, fatevi giocare. È stato pure il migliore però campo. Però voglio dire, alla fine, in sostanza, ciò che fa muovere gli animi a livello di emozione, di commozione, di buoni sentimenti, almeno per quel momento, comunque è sempre una buona cosa, dai. Però Bruno Conti, che dice a distanza di tempo a Spalletti, dice: a Roma non si è comportato bene perché ha fatto smettere di giocare Totti, forse è un po' esagerato. No, cioè, insomma, però era il momento giusto, no, però, dai. Sì, era il momento giusto. Io ho sempre detto che non mi è piaciuto il modo in cui Conte ha trattato Del Piero, non mi è piaciuto il modo in cui Spalletti ha trattato Totti, perché è una questione di rispetto, non è una questione se è a Roma, a Milano o a Torino. Non tratti in quel modo quello che è stato un grande campione, una grande bandiera, cioè farlo scaldare e metterlo per i tre minuti di recupero a partita finita, secondo me è offensivo. Io mi metto, non so mentalmente come reagisce un grande campione, io mi incazzerei come una pantera, cioè io dico: vai dentro tu adesso a giocare, come Totti un paio di volte ha fatto. Ma questo lo comprendo, certo, non è questione certo, mi paghi non mi paghi, professionismo, queste cose. È un affronto, io lo vivrei così. Ma sì, Stefano, non giochi tre minuti col Palermo sul 3-0, no? Queste cose qua. No, ma è sempre una questione di reciproco rispetto dei ruoli, così come l'allenatore dovrebbe pensare proprio ad un campione che ha rappresentato e che rappresenta ancora in quel momento il sogno, l'ambizione, i desideri di milioni di persone. Quindi, e la sua storia lo dimostra, storia di sacrifici in termini sportivi. Perché vedete, una cosa che posso trasmettervi è che quando io chiedo, stiamo parlando di calcio in questo caso, ma se io chiedo a un calciatore: ma tu quando hai iniziato a pensare che avresti voluto fare il calciatore? Tutti ti dicono: da sempre. Cioè loro fin da piccoli hanno dedicato la loro vita al gioco del calcio piuttosto che ad un altro sport. Gioco. Sì, sì. Quindi vuol dire che hai rinunciato. La mente era già lì. E per questo hai rinunciato comunque a tante cose che bambini, ragazzini si vivono gioiosamente, il sabato sera piuttosto che la domenica, piuttosto che le vacanze, eccetera. Cioè, quando arrivi a quel punto, comunque li hai fatti i sacrifici, Non è. Ma non puoi fare senza. Poi bisognerebbe parlare anche di quelli che invece erano così. Tu parli come dei grandi campioni, ma di quelli che erano così e invece non sono diventati dei grandi campioni. E qui torniamo al discorso della difficoltà poi di calarsi in una vita che normale, quella che facciamo noi comuni mortali. Tra l'altro, Stefano, tu lavori anche inevitabilmente a contatto anche con le famiglie, tra l'altro di diversa estrazione, di diverso livello in relazione al calciatore che curi, eccetera eccetera. Da questo punto di vista, che quanto conta ancora adesso quell'ambiente anche per un campione professionista? Perché sappiamo quanti vengono rovinati in tenera età. Tantissimo, soprattutto per l'esperienza che io ho in Italia. Qui in Italia abbiamo una... Strano, come sono sorpreso, guarda. Viene la mamma che sono cascato dalla sedia. Più o meno. Sì, no, questo è un problema, secondo me, molto culturale, diffuso, no? Che anche nello sport di altissimo livello si percepisce in questo contesto. E quindi le dinamiche che noi vediamo... Sai, noi abbiamo le mamme oggi che parlano del proprio figlio, della figlia di 20 anni dicendo: la mia bambina. Esatto. Questo è un problema perché non c'è il rispetto della crescita e del distacco. E anche nel calcio o negli sport, nel basket, avendo lavorato anche insomma col basket eccetera, l'ho potuto notare soprattutto però qua. Ma certo, ma in Italia è l'unico posto al mondo in cui uno di 20 anni è un giovane giocatore, ma è un giovane giocatore anche uno di 25. A 25 anni il giovane centravanti, il giovane Belotti, ma giovane che stiamo parlando? Sì, cioè sì. Ci sono quelli che a quell'età hanno delle responsabilità, facciamo così, hanno delle responsabilità ben superiori, e non è più il mio bambino, è un uomo fatto e finito. Mi torna in mente Donnarumma, che avrà anche 18 anni, però dovrebbe avere, secondo me, anche la coscienza, maturità di dire: no, aspettate un attimo, perché io vado lì a prendere i fischi, vado lì, io lo sopporto, non lo sopporto, questo toccherà a Stefano Tirelli dirmelo, tu sei il mio procuratore, a che gioco giochiamo? Perché avrò anche 18 anni, però certo. Insomma, alla fine lì sul filo ci provo, ci ballo io, ce la faccio, non ce la faccio, se non ce la faccio lo dico alla mamma, al papà e a Mino Raiola. Traffico, torniamo. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Motori elettrici simotopgroup.com. La qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presento. Tutti convocati. Mi piace, mi fa vagamente alterare il discorso del rapporto tra genitori e figli campioni o presunti tali o predestinati o benedetti da mamma e da papà, dicevamo. Mi viene in mente Stefano, un campione con cui tu hai lavorato nel basket, è sicuramente Alessandro Gentile, no? Che si sta lentamente ritrovando quest'anno alla Virtus Bologna, anche con la maglia della nazionale. Ha dato dei segnali di ripresa, ma che reduce sicuramente da una stagione nera tra l'addio a Milano, la tanta panchina fatta al Panathinaikos, lo scudetto mezzo vinto in Israele, perché poi dall'Apoel lui se n'è andato proprio nel momento in cui poi la squadra allora guidata da Pianigiani ha conquistato il titolo, e in Israele non è mai facile perché c'è sempre il Maccabi, insomma, giocatore figlio d'arte che è sembrato perdersi, no? Sì, ma anche tecnicamente posso aggiungere, perché io parlavo con Marco Crespi, leggevo delle sue cose molto interessanti, e mi dice: guarda com'è peggiorata la sua meccanica di tiro, le percentuali, proprio non è stato, credo, Stefano, adesso ce lo racconti, una questione solo mentale. Cioè, la mente è arrivata a inceppargli i meccanismi anche tecnici. No, tra l'altro la cosa bella è che io, avendo lavorato anche col padre, con Nando Gentile, perché ricordo nel 91 con la Stefanel Milano, allora, io ero nell'ambito della preparazione atletica col professor Trachelio, che era l'allora preparatore atletico. Storico. E quindi abbiamo vissuto degli anni importanti. E quando arrivarono tutta quella flotta da Trieste, tra cui anche Nando Gentile, percepì da lui una grinta pazzesca. Cioè, Nando Gentile era la summa veramente di una tenacia, di una grinta. Del classico scugnizzo, no? che arriva Agazzim. In Alessandro quello che ho trovato è la stessa grinta, la stessa Alessandro è arrivato, secondo me, a successo ancora più giovane. Cioè, mentre Nando ha vissuto una storia ordinata di escalation verso il successo, ad Alessandro è arrivato troppo presto questo successo, questa conclamazione di essere il numero uno dell'NBA, già della proposta, e secondo me lui non ha retto il sovraccarico. Essere capitano così giovane di una squadra come quella più titolata d'Italia, quella di Milano, io credo che gli ci sia stato un pochino di sovraccarico, dove non c'era una opportuna preparazione mentale in questo caso. Un altro caso che mi viene in mente, e la stiamo trovando già protagonista in questi giorni, ma fra poco a Pyeongchang dal 9 febbraio le Olimpiadi invernali, è quello di Michaela Shiffrin, no? Questa campionessa, straordinario talento americano, che riesce a vincere dallo slalom alla discesa, e che è praticamente stata messa ancora in fasce sugli sci dai genitori, mamma e papà, che si sono completamente sostituiti allo staff tecnico, la facevano camminare da piccolina addirittura sugli sci in casa, in salotto, perché migliorasse il gesto. Hanno veramente sono dei pieni potenziali su questa figlia. Che quante ne abbiamo di storie così? Agassi, nel tennis ne abbiamo, lo stesso Nadal è venuto da una famiglia che gli ha messo subito tanta pressione addosso, Monica Seles, insomma abbiamo un sacco di esempi di genitori che ti indirizzano la vita in quella direzione lì, e allora secondo me lì è un casino, secondo me. Ecco, in quel caso, Stefano, una figura come la tua, il mental coach, come può agire e quali spazi di manovra ha in generale, perché poi ogni caso immagino sia diverso e specifico, però chiaro che tu diventi uno della famiglia però senza avere tutte le chiavi del quadro in mano, insomma. No, e questo sono i casi molto difficili da affrontare, perché ti trovi di fronte a delle psicologie dell'atleta, della mamma e del papà. ed è veramente complesso cercare di gestire i tre, in questo caso potrebbero essere anche quattro, potrebbero essere cinque componenti della famiglia molto influenti. Però parliamo di una madre e di un padre che sono appunto molto molto determinati ad influenzare l'attività. Io la domanda che faccio spesso in modo molto discreto a questi genitori è: ma qual è il vostro desiderio? Che vostro figlio sia un campione o che sia felice? Perché lì fa la differenza la cosa. A volte si riesce a costruire un campione, ma si realizza un uomo infelice. Dipende da quello che è, diciamo, la sintomatologia che viene proposta in termini proprio di comportamento. Si vedono già i genitori che desiderano che il figlio sia un campione e che possano mettere magari in secondo piano la felicità del figlio. Tanto è più difficile anche quando nei campioni, per esempio, ci sono delle relazioni molto dipendenti con la propria compagna o col proprio compagno, a seconda che sia maschio o femmina o quanto vogliamo, ma quello è un altro problema, perché la dipendenza di relazione, essendo noi esseri umani, siamo esseri umani anche nel momento in cui facciamo sport. Beh, certo. Questo è evidente. È come il padre, viene in mente il padre di Lonzo Ball, no? Del talento dei Lakers, che lui ha detto: io mi sposo quella perché è alta e voglio tre figli da far giocare nell'NBA. E quelli disturbati sono molti. Dovrebbero farsi curare dal professor Tirelli, ce ne sono un sacco, poi ci sono anche quelli. Ma quello secondo me non ce la fa neanche Stefano a curarlo, è il padre no, di no, padre. Ma talvolta ci vuole anch'io, la camicia con le maniche, ci vuole la camicia con le maniche lunghe in quel caso lì, e si è abbottonata dietro. Quella abbottonata dietro, no, poi ci sono anche degli esempi virtuosi. Ad esempio, mi viene in mente la famiglia di Gallinari, che è invece l'esempio credo virtuoso di come si possa crescere. Comunque, non a caso, sia Vittorio che Marisa sono stati due grandi campioni. Infatti, di una, per esempio, il padre di una Milano vincente di grandi campioni, no? Se pensiamo a quella Milano di Dan Peterson, eccetera, eccetera. Cioè, era qualcosa fatta da persone che hanno vinto tutto. Questo lo ricordo perché, innanzitutto, andavo a vederli all'antico Palasport di Milano. Al Palalido. No, prima che crollasse, no? Con la nevicata, al palazzone. Al palazzone, poi si è messo. Al Palalido. No, appunto, ricordo che quando andavo a vedere questi Billy Banco Roma, no? Queste partite epiche, pazzesche. E poi conoscendo Trachelio, perché anche quella è stata un desiderio che si è realizzato per me. Io sono appassionato di basket, amo il basket. Solo tu, E quando andavo a vederli, dicevo, ma un giorno. E quando il giorno in cui ho incontrato, per esempio, Dino Meghin, è stato altro. Per me un giorno importante, perché per me ha rappresentato sempre l'esempio anche lì di determinazione e grinta, così come grandi campioni di quella Milano, di quel basket. E quindi devo dire che non mi stupisce che la famiglia Gallinari abbia in sé questa influenza positiva data dalla storia che ha fatto anche. Però vedi, quando, ad esempio, prendendo quella Milano da leggenda che tu citavi, ma prendendo l'Inter del triplete, prendendo tutte le grandi squadre vincenti, vedi che insieme di personalità vincenti ci sono, cioè D'Antoni, Meneghin, McAdoo, Premier, guidati da uno carismatico come Dan Peterson, guidati da un allenatore ombra, ma che era quello che faceva il grande lavoro tecnico sul campo come Casalini, sì. Ed è quello, è un gruppo vincente, cioè è inutile star lì con quelli che non hanno personalità, te vinci, c'è niente da fare. Insomma, ma io mi viene anche in mente il modo di porsi di un allenatore vincente, no? Non so, Trapattoni che va al Bayern Monaco e impara il suo tedesco, ma certo, ci mette la faccia, tanto, no? Di perché, cappello. Tanto di cappello. Assolutamente. Ancelotti, che diventa poliglotta, si fa tre settimane in Olanda dai monaci per imparare al meglio l'inglese, perché sa che è importante avere quell'opportunità del Chelsea e manifestare subito rispetto per il Guardiola, che fa la prima conferenza stampa in tedesco, perfetto. Beh, Mourinho è arrivato qui, Mourinho, non sono mica pirla, sono mica prima conferenza stampa, sono ragazzi, mica un pirla. È venuto qui sapendo l'italiano meglio di me, te, insomma. Cioè, per dire, Mourinho l'aveva già studiato prima, poi perché lui per lui è sempre stato un... Quindi lui si era già preparato, ricordo quando gli regalai, un anno prima che lui arrivasse all'Inter, gli regalai il mio libro di tecniche complementari sportive, gli dissi, guarda, è in inglese, gli dissi, José, is in English, is in Italian, but no, ma tranquillo, io lo so l'italiano. Ok, okay, allora, buona lettura, José, buona lettura. E lì ho scoperto che sapeva l'italiano. No, comunque, insomma, è questo il trend che forma le grandi squadre e che formano invece quelle squadre che non sono grandi e non saranno mai, come appunto la nazionale italiana, dove avevamo cominciato in questi due giorni. Quanto manca, ragazzi? Due minuti no, io vi posso dire una cosa, come, che no, io vi ringrazio, perché sembrano banalità, sai, ogni tanto si sente, sì, sono discorsi già fatti, però voi state facendo, secondo me, un'opera egregia, perché quando si parla di questi argomenti, di questi elementi, non è mai troppo poco. Cioè, pensate a quanti ragazzi, quante persone ci stanno anche ascoltando, no? E magari su 100 uno di questi ragazzi, una di queste persone inizia a percepire magari uno spunto di riflessione su certi valori che io non mi vergognerei mai di esporre. Cioè, io sono contento di questi elementi che persone come noi, in un modo o nell'altro, hanno l'opportunità di divulgare. Ma sai perché parlo a nome di tutti, compreso Giorgio De Luca, il nostro autore, certo. Marco Ferronati in regia, che intanto salutiamo, perché a tutti noi sta roba piace da morire. Cioè, io mi diverto, certo. Ragazzi, no, non c'è nulla da fare, è come chi gioca a calcio, mi diverto, mi piace, è una cosa che a me piace, che sento. E io sto qua a parlare con Stefano Tirelli, ci starei 3 giorni, ma anche perché sono curioso e questo mi porta. Beh, sono quasi 2 pieni che abbiamo fatto, sono quasi 2 giorni pieni, infatti. sono curioso e quindi andrei avanti con storie, aneddoti, racconti su tutto il mondo scibile. Dunque, domani torna Capuano, torna tutti convocati in versione normale, cronaca, diretta, telefonate, eccetera eccetera. Io ringrazio Dario Ricci per questa opera congiunta, tutti convocati, Olimpia. Ringrazio ovviamente Stefano Tirelli. Grazie a Stefano. Voi grazie di essere stato con noi, di averci dedicato il tuo tempo. Ci sentiamo presto, ciao.